tu suerte, sota la tu grande historia, con un sole, ya tu furia, hai tu strato la morte. A tu mano gloriosa e forte, alla tua storia ci spara, quando tu, santa chiara, se quiera la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Veni bruciando la brisa, un sole di primavera, e per piantare la bandiera con un tuo veloso reso. Con tuo amore rivoluzione ti portano a impresa, sperando la firmezza con un pugno di liberazione. A chi se quiera la clara, la entrañable transparencia, de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Clara, la entrañable transparencia de tu.